Io. Allora, oggi che giorno è? 7 marzo, siamo a Somma Vesuviana, e ci siamo io, Vincenzo e Bianca, e partirei proprio da chiedere a te che ci ospiti chi sei, certo. Il tuo nome, la tua età, quello che ci vuoi dire di te e poi andiamo all'azienda che rappresenti o di cui fai. Allora, io sono Giovanna Ostacolo, ho 47 anni, giusto? No, scusami, 46. Compiuti proprio oggi è il mio compleanno. Quindi, vabbè, 46 anni, sono originaria di Napoli, però vivo ormai da 18 anni sposata con mio marito a Santa Anastasia. Ok, avete un'azienda agricola, come si chiama? Sì, abbiamo un'azienda agricola, io e mio marito, che si chiama Azienda Agricola Antichi Sapori di Cacciola Daniele, nata naturalmente da generazioni, nel senso che mio marito proviene da aziende agricole e quindi è lui che ha tramandato quelle che erano le pratiche agricole del papà, del nonno, del bisnonno. Infatti mio marito è la quinta generazione. E io invece provengo anch'io da una famiglia agricola, però mi sono affacciata a questo mondo dopo sposata, perché io prima ero in tutto altro settore, cioè non svolgevo questo tipo di lavoro. Però mi sono resa conto che quando sposi un agricoltore sposi anche la sua attività, perché non concilia proprio né come orari né come quelle che sono le consuetudini di una famiglia, quello l'essere sposata con un agricoltore. Quindi mi sono anche io votata a questo settore proprio per amore. Ormai conosco mio marito da 23 anni, 18 anni sposati, quindi mi sono anche io votata a questo mestiere. Posso chiederti prima che cosa facevi? Certo, io prima ero una responsabile amministrativa di una società. In ambito prima trasporto e poi edilizio per più o meno 15 anni. Quindi svolgevo attività di amministrazione, personale, contabilità e quant'altro. E adesso invece nell'azienda quali sono i tuoi compiti, il tuo ruolo? Attualmente nell'azienda io svolgo la campagna molto poco, perché purtroppo ho problemi fisici, però svolgo tutta la parte amministrativa. Diciamo che io e mio marito abbiamo scisso le due cose, nel senso che io mi occupo del lato amministrativo e lui del lato pratico, praticamente, della campagna effettiva. Prima dicevi che provieni da una famiglia agricola. Sì. Puoi raccontarci un poco? Certo, la mia famiglia praticamente, mio papà e mia mamma erano agricoltori anch'essi, provenienti sempre da una famiglia di agricoltori, da generazioni. Poi mamma, più che papà, decise di farci studiare, che noi siamo quattro femmine, decise di farci studiare, ma non perché il settore non desse aspirazioni, ma semplicemente perché eravamo ragazze, femmine, non avendo nessun figlio maschio, quindi papà decise di non farci fare questo tipo di lavoro. E infatti abbiamo studiato tutte e quattro. Dove vivevi con la famiglia? Io abitavo a Ponticelli prima. E quindi avete studiato, ma prima, diciamo, di dedicarti agli studi, hai partecipato all'azienda, alla produzione? Da quando ero piccola, sì, assolutamente, sempre. Anzi, noi l'estate la passavamo in campagna, l'estate, il Natale lo passavamo in campagna, perché poi all'epoca, soprattutto a Natale, c'era il rito della minestra, no? Quindi i giorni di Natale noi li passavamo a raccogliere la minestra in campagna. E poi pure l'estate, una volta finita la scuola, soprattutto, mamma ci metteva in campagna a lavorare. E che cosa facevi all'epoca? Cioè, all'epoca raccoglievamo fagiolini, peperoncini, melanzane, zucchine, queste cose qua. Diciamo, sono nelle conversazioni con la persona che poi è diventato tuo marito, vi siete mai raccontati di com'era il lavoro agricolo che faceva lui con la sua famiglia? Allora, mio marito proviene da un'azienda, da una famiglia che faceva prettamente fiori. E la frutta e la verdura avevano un ruolo marginale. Poi nel 2005 venne espropriato il terreno di mio marito, perché mio marito era anch'esso di Ponticelli, dove c'è l'attuale ospedale del mare. Cioè quel terreno, la maggior parte, era tutto di proprietà della famiglia di mio marito. Quindi mio marito da lì si è trasferito poi tra Sant'Anastasia e Cercola, dove abbiamo i terreni, e dove poi si è votato all'agricoltura, quindi ortaggi, frutta e quant'altro. Vogliamo approfondire un po' come è organizzata l'azienda agricola, diciamo, da quel momento in poi, no? Cioè, attualmente, come, cosa producete? Attualmente noi siamo in regime biologico, quindi abbiamo delle rotazioni colturali, non seminiamo quasi sempre la stessa cosa sullo stesso pezzo di terreno, addirittura abbiamo terreni che sono a riposo anche un anno e mezzo, perché appunto il regime biologico ci dà questo tipo di possibilità di avere a riposo i terreni. La nostra principale fonte di sostentamento, diciamo così, è il pomodorino del pinnolo, dove seminiamo sia quello rosso che quello giallo per la trasformazione e anche per la vendita del fresco. E poi naturalmente i contorni sono le verdure fresche, che possono essere in inverno friarielli, scarole, cavoli, verze, in estate invece pomodori, zucchine, melanzane, papaccelle, queste cose qua. Che estensione hanno i terreni che... Allora, noi abbiamo attualmente circa 10.000 metri quadrati a pollena trocchia, circa su 4, 3, 6, circa altri 10.000 metri quadrati a Sant'Anastasia, 2.000 metri quadrati a Napoli, e poi mio marito ha un pezzo di terra in montagna, Frasso dell'Esino, dove facciamo olio e vino. Che estensione ha? Circa un ettaro e mezzo più o meno, 15.000 metri, 16 sono preciso. Sono terreni di proprietà? Sono tutti terreni di proprietà, l'unico che abbiamo in affitto è quello di Sant'Anastasia, perché sta di fronte a casa nostra, c'era questo terreno incolto e il proprietario lo voleva vendere, però fino ad oggi non l'ha mai venduto, però ce l'ha affittato a noi, sono 12 anni che ce l'abbiamo in affitto. Dicevi che siete in regime di produzione biologica, sì. Che metodi di produzione? Allora, il regime di produzione biologica è praticamente vieta, o meglio, più che vietare, io dico, ci dà l'opportunità di coltivare il terreno senza l'uso di pesticidi, senza nessun tipo di concimi se non quelli organici, quindi niente di chimica, niente di sintesi. Noi infatti facciamo appunto il rovescio per un anno e mezzo, seminiamo, che ne so, la favetta, il famoso rapestone per dare un pochino di concima al terreno, e poi dopo naturalmente andiamo alla semina. Voi commercializzate solo prodotti trasformati o anche fresco? No, anche fresco. Noi siamo nel regime Campagna Amica, non so se lo conoscete. Infatti facciamo un mercato a settimana a Posillipo, dove appunto proponiamo i nostri prodotti, sia freschi che trasformati. Cioè, ci ritorno tra un attimo, volevo chiederti invece rispetto all'irrigazione, come vi regolate? Dipende dal tipo di terreno. Il terreno di pollena trocchia non ha irrigazione, è dove praticamente abbiamo la coltivazione del pinnolo. Proprio perché siccome lavoriamo in siccità, il prodotto viene un ottimo prodotto. Mentre Sant'Anastasia abbiamo un pozzo fatto dai miei suoceri, dove appunto attingiamo l'acqua da questo pozzo. Ok. E i semi invece li acquistate? Allora, alcuni semi li acquistiamo, perché purtroppo in agricoltura biologica bisogna fare... Abbiamo degli, come posso dire, dei protocolli da dover seguire, e alcuni semi invece li portiamo noi, o meglio, soprattutto il pinnolo lo tramandiamo noi, abbiamo un seme nostro personale che tramandiamo da generazioni, mio marito, mentre per altre cose invece li acquistiamo, soprattutto determinati prodotti li dobbiamo per forza acquistare. Acquistate il seme o andate a vivare? Sia piantine che seme. sia vivaio che semi, dipende dal prodotto. Regime biologico. Certo. Torniamo a quello che chiedeva anche Bianca, no? Oltre alla produzione avete anche trasformazioni. Sì, abbiamo un laboratorio di trasformazione, quest'anno saranno 7 anni, perché è stata una sfida, nel senso che noi prima facevamo la trasformazione conto terzi, però ci rendevamo conto che il prodotto che loro ci davano o non era il nostro, o non ci piaceva come veniva trasformato, oppure utilizzavano prodotti di sintesi che noi non eravamo tanto d'accordo. Quindi 7 anni fa abbiamo fatto questa sfida di aprire questo laboratorio, che prima era sempre qua, però molto più piccolo, nel senso che facevamo soprattutto a mano le cose, e poi man mano in 7 anni siamo cresciuti e abbiamo automatizzato parecchi diciamo, processi. Che cosa trasformate? Quali sono i vostri prodotti? Di tutto, dalle verdure ai pomodori, alla frutta, quello che ci capita, anche perché lo facciamo anche conto terzi, quindi il cliente che ci porta un prodotto, noi se lo possiamo fare lo facciamo tranquillamente. Frutta non ne avete come produzione? Sì, abbiamo anche frutta, soprattutto albicocche, prugne, abbiamo fatto un nuovo piantato di vigneto, di catalanesca, un progetto nato 3 anni fa, sempre in regime biologico, che praticamente su un terreno che le verdure non venivano mai bene, mio marito ha detto proviamo con la vite, abbiamo seminato quasi 4.000 metri quadrati di catalanesca e adesso è 1 anno e mezzo che sta a terra, l'anno prossimo dovremo iniziare la prima raccolta. Mentre invece dal punto di vista della commercializzazione, quali sono i clienti, i circuiti, i consumatori allora, a cui vi rivolgete? Per quanto riguarda il fresco, noi abbiamo il circuito Campagna Amica che ci aiuta nella vendita del fresco, perché altrimenti portarlo al mercato generale è più un salasso che un guadagno, sinceramente. Quindi ci aiuta il mercato di Campagna Amica. Per quanto riguarda il trasformato, invece, capita sia al privato, sia il grossista, il negoziante, la GDO anche qualche volta, dipende da chi ci chiama. I mercati di Campagna Amica, più o meno con che frequenza? Li facciamo 1 volta a settimana. A quale partecipate? Solo Posillipo. Sì. Okay. Invece rispetto ai trasformati avete relazioni con circuiti di consumo critico, gas? Allora, noi per quanto riguarda i gas abbiamo una rete che si chiama Rete della Buona Terra, che praticamente è un'associazione di coltivatori. Attualmente ne siamo 5, dove praticamente è, come posso dire, è una cultura etica. Cosa voglio dire? Che i gas ci pagano il giusto prezzo rispetto al nostro lavoro, quindi viene stilato tipo un report sia della coltivazione che della trasformazione del prodotto. E poi esce un prezzo e questi gas ci pagano il 50% prima e il 50% quando ricevono il prodotto. Questi gas però sono soprattutto del nord Italia, centro nord Italia, abbiamo Marche, abbiamo Toscana, Emilia, qualcuno del Piemonte, soprattutto sono concentrati in Lombardia. Rispetto alle vostre vendite in generale, più o meno che diciamo valore percentuale, cioè quanto conta questo canale di vendita? Allora, questo canale di vendita, facendo una mente locale, attorno al 15% del fatturato dell'azienda. Okay. Il resto invece si rivolge a singoli... Il resto si rivolge sia a, appunto, a negozi gourmet, naturalmente anche ai privati, ma soprattutto quello che è aumentato negli ultimi 3 o 4 anni è la trasformazione, quindi abbiamo visto un bel riscontro nel lavoro conto terzi. Okay. Quindi diciamo che il 60% dei nostri guadagni è sulle lavorazioni conto terzi. Ti posso chiedere un ordine economico del vostro fatturato? Allora, quest'anno abbiamo raggiunto come fatturato 150.000 euro. Allora, ci sono un po' di domande per approfondire un po' come vi organizzate nel lavoro in azienda, no? Intanto, all'inizio ci raccontavi di questa divisione, no? Dei compiti Sì. tuoi e di tuo marito. Ci puoi approfondire un po' come vi Sì, organizzate? praticamente tutto quello che è l'aspetto amministrativo, contabile, sono io che me ne occupo. Invece mio marito decide quello che è il carattere manuale, quindi il lavoro reale, quindi la campagna, anche l'aspetto organizzativo in azienda di trasformazione con gli operai e quant'altro. Questa è il nostro, la suddivisione dei compiti. Tra l'altro ce l'abbiamo presente in questo momento, quindi Sì, possiamo veramente renderla chiaro. corale la conversazione. E, oltre a voi due ci sono altre persone che Sì, lavorano in azienda. certo. Noi abbiamo quattro operai fissi all'anno e poi durante il periodo caldo, che per noi è da giugno fino ad ottobre, abbiamo altri tre operai che si inseriscono. Quindi siamo sul range di 7-8 operai all'anno. E loro sono dei lavoratori dipendenti. Allora, i quattro operai che ce li abbiamo fissi sono tutti e quattro dipendenti in regola con i documenti, con le visite mediche, con tutti gli annessi e connessi. Gli altri tre sono sempre in regola, però sono stagionali. Sono tutti uomini, o ci sono delle... Fino a 4 anni fa c'erano anche donne, quest'anno, cioè sono 4 anni ormai, vabbè, però lavorano part-time. Abbiamo due donne, però lavorano part-time, però il resto sono quasi tutti uomini, la maggior parte. Le donne lavorano nel laboratorio di trasformazione o Qualche nel... volta sì, ma soprattutto in campagna, nella raccolta. Le donne ci aiutano soprattutto nella raccolta, invece più nei lavori manuali sono più gli uomini. Volevo chiederti anche, sono del luogo, sono italiani o sono persone straniere? Allora, le donne sono due italiane, mentre gli uomini sono tutti stranieri. Quanti insieme, c'è niente da fare. Vabbè. Se c'è Dobbiamo bisogno di fermare. No, fare un non ti attimo. preoccupare, no, andiamo avanti, andiamo avanti. Sono stranieri di dove ce lo conti? Abbiamo un algerino, due maliani, poi durante il periodo caldo sono soprattutto indiani e Bangladesh. Posso chiedere gli stagionali più o meno quante giornate riescono a fare col tuo... Allora, in agricoltura purtroppo funziona diversamente rispetto a quelli che sono i contratti nazionali di altri tipi di categorie. Quindi loro di solito gli stagionali sono le 51 giornate. Dicevi c'è una divisione, tu dicevi le donne lavorano un po' in laboratorio, un Sì. po' nei campi, nella raccolta. Ci racconti un po' di più di come vi organizzate in questa divisione tra uomini e donne nel lavoro? Allora, noi di solito le donne vengono a lavorare quando noi abbiamo bisogno di raccogliere il prodotto. Quindi, appunto, perciò dicevo, mio marito diceva, quindi le donne vengono in determinate ore e in determinati giorni, mentre i ragazzi lavorano le 6 ore e mezza fisso al giorno, che loro fanno dalle 7 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, con un'ora di spacco dall'1 alle 2. Ci sono compiti più pesanti che assegnate agli I uomini? compiti più pesanti sono soprattutto quando alzano le cassette da 25-30 kg. Quello è la difficoltà maggiore per loro. Poi per il resto credo che ormai il lavoro dei campi sia molto cambiato rispetto al passato. Quindi comunque noi abbiamo trattori piccoli, abbiamo il trattore grande, abbiamo mezzi agricoli che ci aiutano comunque nella gestione e nella pratica agricola reale. Mi aiuti a chiedere un'altra domanda perché ci sei arrivato. È molto comune, soprattutto in zona, che magari alcuni lavori si fanno rivolgendosi a controterzisti, no? Tu parlavi del trattore, Sì, voi invece li no, noi gestite abbiamo voi. tutto internamente, sì. Sì, E sono le stesse persone che mio marito ha vengono a... il patentino come trattorista che utilizza il trattore. Capita invece al contrario, che vi viene richiesta attrezzatura conto Ci viene richiesta, mio terzi? marito non preferisce fare questi tipi di lavori semplicemente perché i mezzi quando si rompono vanno aggiustati, quindi tu quando vai in una campagna non sai quello che trovi. Quindi E quindi, onde evitare questo problema, lui preferisce non andare proprio. Anche perché comunque il tempo è quello che è e non c'è. Le attrezzature come le mogli, non si prestano. Allora, c'è una domanda successiva. Visto che siete entrambi, anche siete contenti della vostra attuale condizione, di come vanno le cose? Assolutamente sì. No, non ci possiamo lamentare, non ci lamentiamo, perché io provengo da un altro settore e devo dire la verità, non me l'aspettavo di trovare questo tipo di, come posso dire, appagamento lavorativo. Anche perché, almeno io ricordo da piccola, i lavori che si facevano in campagna erano soprattutto faticosi. Cioè, io mi ricordo mia nonna che camminava storta per i tanti anni di lavoro che aveva fatto in campagna, quindi era un pochino demonizzato, un pochino sottovalutato come lavoro. Invece adesso mi rendo conto che è il contrario. Cioè, soprattutto se viene fatto bene, è un lavoro molto gratificante. Quali sono le cose che ti, cioè, che ti piacciono del lavoro e del mestiere che fai? Quali sono le cose più gratificanti? Io, per quanto riguarda, come ho detto prima, il lavoro manuale in campagna ne faccio ben poco, per problemi miei. Però la gratificazione è vedere che cresce una pianta, cioè vedere dal seme poi al prodotto finito, cioè quello è spettacolare. Cioè, quando io vedo in campagna mio marito che semina le verze viola, quelle verdi, quelle bianche, il crauto, semina il cavolo verde, il cavolo arancione, il cavolo rosso, cioè quello, il colore è spettacolare. Cioè, per me è bellissimo vedere una campagna piena di colori, è la cosa che mi attrae di più. Posso approfittare del fatto che sei qua per farti la stessa domanda? Perché così cogliamo... Cioè, sei contento della tua condizione? Come no, non sono contento, come? Sennò questo, per fare questo lavoro ci vuole solo passione, amore, o sennò questo tipo di lavoro non lo puoi fare. Se non c'hai queste due caratteristiche, no. Perché sotto il sole, il sudore, la notte, la mattina, o piove, non piove, neve, per fare questo tipo di lavoro, se non c'hai queste cose, questo amore per questa terra, sennò... E quali sono le cose in particolare che ti viene a dire che ti piacciono di più del lavoro che fai? Il profitto del lavoro che uno fa, del loro sudore, quando andiamo a portare un prodotto vicino a una persona che torna a venire e dice: lo sto, sai, ho trovato quel prodotto così saporito che non ho trovato una volta erano quei tipi di prodotto. Quando vengo da te trovo quel sapore di una volta, altre parti non lo trovo. E invece, ritorno a te. Ciao, Giovanni, sono tolto di là. Vai. Loro mi hanno detto che come si liberano. Io a loro devo andare via. E perciò, ok. For the record, deve andare via perché c'è il figlio che esce da scuola. Sì, e quindi sì, deve andarlo a prendere. No, è importante anche per capire, certo, come si gestisce il lavoro, sì, con la famiglia. E invece quali sono le difficoltà, le criticità che affrontate? Allora, le criticità ne sono tante. In ambito agricolo sono soprattutto il meteo, che per noi è fondamentale, perché soprattutto gli ultimi anni abbiamo avuto degli sbalzi termici assurdi. Io naturalmente faccio riferimento al Piennolo, cioè 3 anni fa abbiamo avuto dei temporali che praticamente ci hanno decimato il prodotto, abbiamo raccolto il 30% rispetto a quello che dovevamo raccogliere. L'anno scorso il caldo ce ne ha fatto raccogliere solo il 50%. Purtroppo le avversità più grandi sono quelle per noi. Noi siamo meteopatici, purtroppo è... Quando tu vedi il lavoro di 4-5 mesi buttato nel gabinetto, là sono le cose che per noi sono più critiche. E questa è una cosa che avete notato negli ultimi anni? Sono gli ultimi 4-5 anni che stiamo avendo di questi problemi. Pensi sia legato al cambiamento climatico? Io credo di sì. Credo di sì, ma soprattutto è legato al fatto che l'aria non è più quella di una volta. Quindi di conseguenza... Improvvisamente fa caldo, improvvisamente fa freddo, improvvisamente piove, improvvisamente, cioè, non si capisce più niente. Questo, l'accordo che fate nella Buona Terra vi aiuta un poco da questo punto di vista? Allora, per quanto riguarda la Buona Terra, sì, assolutamente. E devo dire la verità, i gas, o perché fanno parte di reti solidali, hanno anche altri reti tipo il parmigiano reggiano, eccetera, pasta, eccetera, eccetera, capiscono le nostre problematiche. E quindi molte volte, anche se non viene dato un prodotto eccellente, capiscono che quello è dovuto al fatto che c'è stato un problema in campagna. Non dovuto all'agricoltore, ma dovuto a cose terze, che può essere la siccità, piuttosto che le piogge, piuttosto che un attacco, che ne so, di parassiti e quant'altro. Quindi sì, assolutamente sì. Pensavo, diciamo, prima ci raccontavi che c'è un preacquisto, no? Perciò sì, ti facevo questa domanda. No, ma noi internamente abbiamo l'accordo che se un agricoltore va in difficoltà, l'altro agricoltore lo aiuta con la produzione o la trasformazione. Quindi questo meccanismo, sì, di aiuto tra agricoltori... C'è, poi... comunque, sì, la solidarietà tra di noi. Senti, oltre al cambiamento meteorologico, ti viene in mente altro come criticità o sfida che affrontate? Un'altra criticità che abbiamo avuto circa 3 anni fa è stata con l'acqua. Perché facevamo l'analisi dell'acqua e uscì un problema sull'acqua. L'azienda, Dio, l'abbiamo risolto mettendo un depuratore, però quella è stata un'altra criticità che abbiamo dovuto affrontare 2 anni fa. Un'altra criticità è stata anche il fatto che molti operai non vogliono lavorare in campagna, italiani intendo. Cioè, quindi con... come si chiama, con la carta acquisti, purtroppo molti operai hanno decisero 4 anni fa di non lavorare più in campagna, e quindi noi dovettimo rivolgerci soprattutto agli stranieri. Però nel frattempo gli stranieri se ne andarono tutti al loro paese, perché poi l'Italia entrò in crisi. Quindi un'altra criticità molto grande è pure la carenza di manodopera, molta criticità in questo. Rispetto a questi problemi, diciamo, che ci hai esposto, sono problemi vostri o vi capita anche di condividerli con altri agricoltori? Sono problemi generali, di tutti quanti. Noi abbiamo un sacco di amici che sono 2 anni che non trovano operai qualificati, che non hanno la possibilità anche di seminare un pezzo di terra, perché gli operai non ci sono. Non ci sono. Avete, cioè, alcuni problemi di cui ci parlavi sono vecchi di qualche anno. Avete, sì, già trovato delle soluzioni a, certo, questi problemi? Quali sono? Le nostre soluzioni sono il fatto che anche se un operaio in quel mese non ci serve, noi lo paghiamo lo stesso, lo facciamo scendere a lavorare e lo paghiamo lo stesso per non perderlo. Detto proprio franca, pane al pane, vino al vino. Noi per esempio da gennaio fino a marzo abbiamo dei tempi morti, perché dopo Natale sono un pochino tempi morti, però i nostri operai scendono comunque a lavorare. Seppure li mettiamo a pulire, che ne so, un giardino, li facciamo comunque scendere. E l'avete mai raccontata questa soluzione ad altri agricoltori? Come? Non l'abbiamo raccontata. Che vi hanno detto? E loro dicono che non ce la fanno a sostenere i costi. Però ti dà comunque una garanzia di continuità. Sì, perché noi avendo... oltre che la campagna, abbiamo pure la trasformazione. Cioè andare poi a maggio, giugno a ricercare operai che sanno fare questo lavoro, per noi sarebbe impossibile. Invece questi operai che attualmente abbiamo sono operai che sono da 4 anni con noi, quindi conoscono come gestire anche l'ambito lavorativo qui. E quindi noi non li lasciamo, non li lasciamo, perché sarebbe altrimenti impossibile lavorare. Ti posso chiedere una cosa? Perché con altre persone... abbiamo discusso questo problema, soprattutto dei giovani, no? Cioè, nel senso che non ci sono molti operai, ma soprattutto ai giovani non interessa. Pure voi avete riscontrato questo? Allora, ai giovani non interessa perché non conoscono il lavoro, io penso. C'è molta disinformazione, poi c'è ancora la mentalità che il lavoro in campagna è un lavoro degradante, un lavoro faticoso, mal pagato, e queste sono le problematiche per i giovani, io credo. perché molti giovani purtroppo hanno la concezione ancora che dietro la scrivania sia il lavoro più facile, più comodo, pagato meglio, oppure i laureati, eccetera, eccetera. Invece credo che la disinformazione è troppa. È troppo. Io conosco tanti giovani che una volta conosciuto l'ambito agricolo si appassionano, continuano questo tipo di lavoro. Voi avete figli? Uno solo, sì. Che ne pensano dell'agricoltura? Vabbè, mio figlio è... Purtroppo mio figlio ha un problema di invalidità, un problema di salute, quindi non è tanto propenso, quindi non fa testo, sinceramente. Poi mio figlio è un bambino adottato che viene dall'Ucraina, quindi ha tutto un altro tipo di problemi, quindi no. Mio figlio questo lavoro lo fa come lo facevo io quando ero piccola, quindi quando non va a scuola, anche perché io dovendo venire qua, quando lui non va a scuola deve obbligatoriamente venire qua con me. Senti, se invece guardi lontano, no? Guardi al futuro, quali sono le aspirazioni, i sogni, gli obiettivi che ti dai? Questa cosa mi fa ridere perché... non lo so, io sono una persona che guarda sempre oltre il mio naso. Quindi guardo sempre fra 4-5 anni quello che succederà e dove potremmo arrivare. Invece mio marito, per esempio, per lui... Se domani mattina dovesse andare in pensione già andrebbe. Mio marito dice, io che devo fare più? 50 anni che devo fare più? Devo guardare, tu c'hai altri 20 anni di lavoro davanti. Io invece sono una persona molto che guarda sempre avanti. Cioè io già penso che mo abbiamo avviato dei macchinari nuovi che devono arrivare. Già penso fra 3 anni con quei macchinari dove potremmo arrivare. Oppure penso... se vengono clienti nuovi cosa gli possiamo offrire per tenerli come clienti, cioè la mia mente è sempre in movimento. Che macchinari avete preso? Abbiamo preso una caldaia nuova che deve arrivare a breve, abbiamo preso una passatrice più grande perché quella che avevamo era troppo piccola, avendo aumentato il lavoro abbiamo pigliato alcuni macchinari che già stanno qua che ci aiutano sempre perché non ci sono operai nel trasporto del pomodoro eccetera, eccetera. Queste cose qua. E dove vuoi arrivare con questi macchinari? No, io sono una persona, ripeto, sono una persona abbastanza intraprendente, quindi io cerco sempre, cioè, quando abbiamo iniziato mio marito voleva fare solo il suo, diceva noi ci basta così. Quando sono venute le richieste dei terzi, mio marito era molto scettico, diceva noi non ce la facciamo a lavorare. Ho detto non ti preoccupare, iniziamo a farli. Dove arriviamo, la mettiamo, appizziamo il palo. Con il tempo si è reso conto, abbiamo pigliato... un anno due tre macchinari, un altro macchinario, e così andiamo avanti. Non voglio arrivare da nessuna parte, però voglio arrivare ad un punto che sia noi che i nostri ragazzi, i nostri operai riescono a campare tranquillamente, senza problemi e con un futuro soprattutto. Senti, visto che dicevi che tuo marito andrebbe in pensione domani, sì. Avete pensato cosa succede quando lui va in pensione? No, non ci avevamo pensato. Sinceramente non ci voglio ancora pensare, tanto ci sta ancora tanto tempo. E siete impegnati, diciamo, oltre al lavoro che già fate, che mi sembra di capire che è tanto, avete un rapporto col territorio? Cercate di interagire col territorio? No, questo devo dire la verità, non ce l'abbiamo. Ma perché siamo di carattere molto chiusi, riservati, introversi, sia io che lui. Quindi no, non ce l'abbiamo questo rapporto col territorio. Ti faccio giusto un altro paio di domande che invece è su se avete esperienze di associazioni, di reti, un po' ne abbiamo parlato. Sì. E avete esperienze con associazioni, reti? Di associazioni di reti, oltre a Campagna Amica e La Buona Terra, abbiamo avuto molte associazioni con disabili, tipo l'Antoniano che è Portici, se non erro. 3 anni cioè, abbiamo collaborato insieme con i ragazzi disabili con come si chiama la malattia, con l'autismo, praticamente li lasciano lavorare in campagna, loro portavano il prodotto qua e poi in chiesa li vendevano alle persone. Abbiamo anche collaborato con un altro ente autismo di Pozzuoli, sempre questo ambito, quindi sì, abbiamo rapporti di questo genere, molte volte ci capita. Campagna Amica, diciamo, è un progetto, un programma della rete di Coldiretti, sì. Giusto? Quindi voi siete parte di Coldiretti. E, che, cioè, Che cosa offre Coldiretti ai suoi soci? Quali sono? Allora, Coldiretti è un'associazione di agricoltori, naturalmente di stampo anche politico, non possiamo dire che non lo sia. Praticamente ci offre la gestione del fascicolo aziendale, ci offre la gestione contabile delle cose più grandi, ci offre anche questa rete Campagna Amica che ci dà la possibilità di vendere il nostro prodotto non ai mercati generali ma direttamente alle persone, quindi questo chilometro, tra virgolette, chilometro, metro zero, che ci dà la possibilità appunto di vendere direttamente alle persone finali senza intermediari, quindi anche con prezzi magari più bassi. E voi come soci di Coldiretti che obblighi avete, che compiti avete? Allora, noi come obbligo con la Coldiretti abbiamo il pagamento di una tessera annuale e poi di tutti quei servizi che noi usufruiamo, come dicevo prima, quindi contabilità eccetera eccetera. Per quanto riguarda la rete Campagna Amica paghiamo la cosa al comune, paghiamo una quota alla Coldiretti perché loro ci gestiscono questo tipo di associazione. Questo. Invece della Buona Terra qualcosa in più ci ha detto, una rete informale, vero? Sì, è una rete informale dove praticamente abbiamo contatto direttamente con i referenti dei vari gas in tutta Italia e paghiamo anche una quota sia all'associazione del Nord e paghiamo anche una quota solidale che mettiamo in un fondo dove andiamo a creare dei progetti sempre solidali. In che cosa consiste la vostra partecipazione alla rete La Buona Terra? Di essere pagati il giusto rispetto al lavoro che svolgiamo. Partecipate. Sì, fammi l'esempio. Un esempio, se noi il pomodoro magari al mercato generale lo dobbiamo svendere perché il pomodoro in quel periodo di tempo, tipo luglio, agosto, si svende perché ce n'è tanto, la rete, la Buona Terra ci paga invece il giusto, magari 1,30 euro, che è il prezzo reale. Questa e, è la. E voi partecipate a riunioni organizzative? Come sì, funziona? Noi facciamo varie riunioni per stabilire il prezzo trasparente tra gennaio e marzo e poi facciamo delle riunioni anche in post vendita, quindi se il prodotto è piaciuto, se ci sono state delle criticità, se ci sono stati dei malcontenti, e poi invece tra noi coltivatori facciamo delle riunioni per capire come gestire annualmente la vendita di questo prodotto. E ci dicevi che una quota va dei progetti solidali, ci puoi fare qualche esempio di progetti che allora come prodotti come progetti solidali ancora niente, nel senso che i soldi sono pochini perché diamo praticamente lo 0,05% del guadagno che ne facciamo. Un anno è servito per problemi di carattere temporaleschi eccetera, un altro anno per una cosa, un altro anno un vecchio agricoltore non l'ha voluta pagare, quindi le quote attualmente sono poche, però quella quota è sempre accantonata in una carta di credito che c'ha un socio e noi nel momento in cui riusciremo a rimpinguarla un pochino faremo qualche progetto solidale. Giovanna, invece chi è che tiene i rapporti con i gas? Come vengono scelti? Siamo cinque di noi e ognuno c'ha il proprio compito. Tipo, io mi occupo della logistica, quindi delle spedizioni, di come fare le pedane, di come a chi deve andare e quant'altro. Poi abbiamo un altro socio che sarebbe Miriam, che si occupa invece di tutta quella la pratica politica, quindi c'è il rapporto col gas, con il referente ce l'ha Miriam. Anna Maria invece si occupa della parte amministrativa, contabile, di tutti quelli che sono i conti, i conteggi, come separare le cose. Gli altri due invece soci sono nuovi, entrati l'anno scorso, proprio perché avevamo avuto problemi con soci vecchi, come dicevo prima, e quindi loro per adesso non sono uditori, tra virgolette. Senti, rispetto ai progetti solidali, hai mai pensato che cosa ti piacerebbe sostenere? Hai mai proposto qualcosa? Allora, io non ho proposto mai nulla, però sicuramente nell'ambito dell'autismo, della disabilità, progetti come io li ho fatti già personalmente con la nostra azienda singola, sicuramente saranno quelli. Partecipate a diverse reti, no? Sì. Abbiamo parlato di alcune. Qual è il valore aggiunto? Cioè, che cosa vi dà partecipare a queste reti? Qual è il principale valore aggiunto che vi dà? Sicuramente il valore aggiunto è il fatto che ci venga pagato il giusto prezzo, che per noi è fondamentale. Perché tu vedere che tu raccogli pomodoro, che viene da un seme seminato a marzo, che tu lo raccogli a luglio e vederlo pagato, che ne so, 50 centesimi, 30 centesimi, è proprio scoraggiante. Invece vedere che persone capiscono il giusto valore di quel prodotto, che è un prodotto che deriva appunto da tanti processi, pagato al giusto prezzo, quella è una gratificazione, assolutamente. E ci sono invece dei particolari bisogni che voi avvertite, a cui le reti a cui partecipate non riescono a rispondere ancora? Vabbè, c'è sempre nei gas magari la persona nuova che non è tanto, non mastica ancora questo settore, che magari si può lamentare che la passata è troppo liquida, oppure che il pomodoro c'ha un po' troppo di sale. C'è sempre questa cosa, però è una cosa che si supera tranquillamente spiegando alla persona perché quella passata c'ha quel sapore, perché è così liquida, perché le persone sono abituate alla passata del supermercato, che è talmente dura che non sa perché quella passata sia così dura, che è asciugata meccanicamente, perché ha subito un processo chimico che arriva a 170 gradi per farla asciugare. Cioè, sono tante le cose che vanno spiegate. Prima, tra le criticità, prima ci accennavi che dentro la Buona Terra in particolare c'è un meccanismo di aiutarsi tra produttori. Sì. La questione dei lavoratori che non si trovano, l'avete mai affrontata insieme? Avete mai pensato di affrontarla? Certo, l'abbiamo affrontata. Il problema è che molte volte siamo aziende che non siamo sul territorio campano, però non siamo vicini. Tipo io con Miriam, che siamo praticamente a 2 chilometri di distanza, molte volte Miriam ha preso i nostri operai per lavorare nella campagna, anche noi suoi. Il problema è quando noi abbiamo aziende come che ce l'abbiamo, una ce l'abbiamo in provincia di Salerno, quasi Valle Diano, quindi 3 ore di differenza, molta. Oppure aziende che, tipo l'altra azienda che abbiamo, vabbè, Sodano è... c'ha già i suoi operai, quindi no, non c'ha bisogno di precisità. Quindi sì, ci sarebbe questa cooperazione, ma a volte è la distanza che non ci dà la possibilità di farlo. Ci sono altre domande? Invece tu pensi ci siano... c'era qualcosa che ci volevi raccontare e non ti abbiamo chiesto? No, io forse l'unica cosa che potrei dire è che... di dare l'esperienza delle persone, soprattutto come me, di cosa vuol dire veramente il lavoro agricolo. Perché, ripeto, molte volte vedo programmi in TV tipo Gheo, no? Che è un programma che parla di agricoltura. Ma è tutto bello, rose e fiori, tutto sembra di stare in un paradiso terrestre. In realtà non è quello. Però bisognerebbe far capire alle persone cosa sia veramente il valore della campagna. Cioè, noi abbiamo partecipato pure noi a Gheo l'anno scorso, ma sembrava tutto tranne che la nostra azienda, sinceramente. Cioè, sembrava, che ne so, stare nel paradiso terrestre, i fiorellini, le apine, perché noi abbiamo pure un apiario che ci aiuta nelle impollinazioni. Cioè, sembrava quasi un film tipo, che ne so, Heidi. Invece la realtà è, è ben diversa, quindi magari è normale che una persona quando vede la realtà poi si demoralizza. Invece far capire alle persone veramente cosa sia il lavoro della campagna, cosa sia veramente poi il guadagno che c'è dietro quella cosa, soprattutto se tu lo valorizzi. Che per esempio molte volte vengono persone da me e dicono tu sei troppo cara, però come diceva mio marito, però quando l'assaggiano dicono sì, è caro, però il sapore, il valore è diverso. E ritornano, tutto che è caro. Dici, c'è da apprezzare sia la fatica e quanto... certo, il guadagno. Cioè, quello ci dovrebbe essere il binomio tra lavoro e guadagno. Quello non c'è, bisognerebbe far capire alle persone questo. E secondo te, se si capisce questa cosa? Allora, io ho un problema fisico e sono caduta, un problema al ginocchio. Ho girato 5 ortopedici. Tutti quanti dai 100 ai 150 e 200 euro sono presi, ok? Senza affiatare chiunque. Poi tu vai una zucchina che costa 2 euro attualmente al supermercato, tu la metti 2,20 euro, si lamentano per 20 centesimi. Secondo te è giusta questa cosa? Quindi tu dici che le persone che comprano il prodotto dovrebbero capire veramente cosa c'è dietro per apprezzarlo. Poi quando lo comprano a 2,20 euro lo assaggiano, dice, è diverso, è nata cosa, usa pure una volta. Secondo te quale potrebbe essere un mezzo giusto? Guarda, è difficile far capire alle persone che un prodotto di qualità può avere anche un piccolo difetto, difficilissimo. Le persone vogliono le cose perfette, difficile, molto difficile. Per anni ci hanno bombardato di perfezione, il prodotto deve essere perfetto, tutto quanto uguale, tutto quanto, cioè sembra quasi una produzione meccanica. A volte è uscito fuori, no, che lavorare magari con i bambini piuttosto che con gli adulti che hanno già degli schemi mentali prestabiliti può essere più semplice, no, nelle scuole, attraverso programmi. Però poi quando vanno a casa e la mamma gli dice tutt'altro, a chi ascolta? Secondo te un bambino chi ascolta? La mamma è una persona strana che gli ha detto una cosa. Io ti dico una cosa, mio figlio ha un problema di invalidità. Mio figlio quando andava a scuola, soprattutto alle elementari, ormai ha quasi 18 anni, quando andava alle elementari i bambini tutto amore mio, cuore mio e così via. Poi un bambino andava a casa e ma quello è mongoloide. Secondo te il bambino quando andava, mio figlio andava a scuola, se tu sei mongoloide, secondo te la mamma chi ha ascoltato? Cioè il bambino che ha ascoltato, la mamma oppure magari l'insegnante di amichetti che lo trattavano normalmente? Quello è il problema. Cioè bisognerebbe educare i grandi più che i bambini, che i bambini assorbono dai grandi. Però se un bambino vede la TV, bello, poi la mamma gli dice tutto al contrario, secondo te chi ascolta un bambino? Io dico sono la mamma. Senti, pensando a quello che stai dicendo, potrebbe essere una strada organizzare più momenti di incontro con consumatori, genitori, bambini? Allora, se lo facciamo al nord magari sì, ma al sud ti dico che è molto difficile. Perché? È perché il genitore del sud dice pure sì, sì, sì, sì, sì, ma in fin dei conti poi non lo farà mai. E perché secondo me? Perché c'è ancora la mentalità di fottere gli altri, di risparmiare, non lo so, però la mentalità al sud è tutta un'altra cosa. Va bene. Ci sono altre... Infatti noi lavoriamo solo col nord, detto proprio francamente. Noi col sud lavoriamo solo con i circuiti Campagna Amica, ma il 90% dei nostri clienti è tutti del nord Italia, estero, detto proprio francamente. Ok. Chiudiamo la registrazione, okay. E speriamo di poter produrre qualcosa che aiuti a superare questi ostacoli. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, piacere, Vincenzo. Sai che ci siamo viste da Anna Maria? Può essere, sì, sì, qualche volta sì. Può essere. Sì, ma secondo me con lui ci siamo visti pure da Anna Maria. Sì, sì, c'era anche io le bimbe. Lo volevo dire prima, poi sì, sì. Io ho fatto finta di niente. No, invece io l'avevo intuito, ma ho detto se mi sbaglio. Grazie mille, grazie del tuo tempo. Speriamo di fare qualcosa che serve. Ciao.